Dice il poeta: il paese era molto giovane e i soldati a cavallo erano la sua difesa. E continua: il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. Quella che Francesco De Gregori tratteggia con la sua Buffalo Bill è una nazione che comincia, un vagito ruggente che ingloba tutto e tutti con la forza di un leone e in pochi decenni conquista e distrugge, con una potenza che al confronto Giulio Cesare e Napoleone sembrano ragazzini che giocano con la fionda. È un'infanzia che dura tantissimo, tra alti e bassi, come è normale che sia. Ci si sente onnipotenti quando si è bambini. Non ci si cura dei pericoli. Ci sarà qualcuno che pensa a noi, no? E si è curiosi, terribilmente curiosi. Ogni luogo una scoperta. Ogni pertugio un segreto su cui posizionare la nostra bandiera. La gloria della conquista diventa terra e nazione e 50 stelle che stanno a brillare su un fondo blu, a fianco alla purezza del bianco e alle strisce rosse del sangue con cui si è costruito. Perché ci si fa male a costruire. Un po' si litiga con gli altri, un po' ci si sbuccia da soli le ginocchia e i gomiti, si cade, ci si rialza, fatti di gomma come si è quando si è bambini. La creazione è un percorso difficile ma esaltante. Chi se ne frega se si distrugge nel frattempo? Perché non parli? Ha detto Michelangelo a Mosè, talmente era uguale a un vero uomo e mica si è messo a piagnucolare per il marmo gettato via, scalpellato e semidistrutto che giaceva intorno a lui nella stanza. Col treno e con il fucile si creano le nazioni. La prateria è un cimitero di bisonti. Chi la popolava diventa larva, ubriaca e violenta. Oppure un santino la cui foto è sul comodino di ogni pseudo progressista. Si stende la coperta del progresso da est a ovest, da Plymouth, dove sbarcarono i padri pellegrini nel 1620, fino all'Alaska, comprata dalla Russia a fine 800. Sono le magnifiche sorti progressive. Davanti a loro non c'è nulla che le possa contrastare. Gli Stati Uniti sono un ruscello che irrompe, fanciullesco, innocente, e divora sassi, arbusti, cespugli, tronchi, querce. Le sue acque miracolosamente sono sempre limpide, mai minacciose, pure e setose come la pelle di un bambino. Ci si riflette il cielo e il cielo non è mai colpevole. Ah, che bellezza incombente, quella di chi cresce di continuo e non può fare a meno di crescere, che ti metti contro un muro e segni il punto a cui è arrivata la tua altezza e ogni giorno sempre più in alto e pensi che la tua crescita sia inarrestabile. Ma soprattutto vedi che intorno a te tutti la giudicano giusta. Nessuno storce il naso o scuote la testa e chi lo fa viene zittito. Ma dai, ma è solo un bambino, come osi contraddirlo? Sei un vecchio invidioso se lo fai. Oppure un comunista, che è diventato un insulto buono per tutte le stagioni, tanto nessuno sa davvero che cosa sia un comunista. Gli Stati Uniti d'America sono un treno. Un treno che percorre potente la prateria. Tutti su una strada ferrata su cui è facile capire dove si va perché è dritta, è tutta dritta. E mangia tutto quello che incontra. E il fanciullo cresce glorioso e diventa un ometto. Che quasi non lo si riconosce più. È come quando si va a trovare le vecchie zie che non si vedono mai e queste ti dicono: oh, come sei cresciuto. Dalle fredde coste del Maine e del New Hampshire, ai deserti del Nevada e dell'Arizona, alla perenne primavera della città degli angeli, passando attraverso i parchi e le montagne del Wyoming e del Montana, le grandi pianure del Missouri e del Nebraska, i temporali dell'Oklahoma, l'umidità dell'Iowa, i canyon, i boschi, i serpenti, gli orsi bruni e centinaia di migliaia di nativi. Tutto viene asfaltato dai binari che proseguono maestosi, perché il progresso è inarrestabile, come la crescita che sembra perpetua. Il treno è Dio e porta alla gloria. This train is bound for glory. This train is bound for glory. This train is bound for glory and carrying other wretches in a hurry. This train is bound for glory. This train. This train will carry no gamble. This train. This train will carry no gamble. This train. This train will carry no gambles, and a rhythm boy and a fool will ramble. This train will carry no gamble. This train. This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. This train. Well, this train is bound for glory and carry wretches running in the holy. This train is bound for glory. This train. This train will carry no smoker. This train. This train will carry no smoker. This train. This train will carry no smoker. Big tech lion, big time joker. This train will carry no smoker. This train. This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. This train. Well, this train is bound for glory and carry the roaches again. The holy. This train is bound for glory. This train. Questo, quel paese in cui tutti si riconoscono. Tanti, però, troppi ci si riconosce. Arrivano da lontano, da oltre l'oceano blu in cui New York si spezia, si specchia senza sapere che là in fondo c'è un mondo intero che scalpita. Dalla Germania, dall'Irlanda, dall'Italia. 30 milioni di persone in 50 anni. Senza niente se non la speranza. Non scappano dalla guerra o dai massacri, no, no. Scappano da un futuro che già sanno essere molto peggio del presente e del passato. Un esercito spaventoso e spaventato, senza armi né bandiere, senza tamburini o trombe che squillano l'assalto. Prendono possesso, allargano i confini, saltano sui treni, vanno oltre la frontiera, la spostano. Non ci sono muri, non ci sono ostacoli. Il progresso avanza. Insieme alla ferrovia. Che importa se i soldi non ci sono? Ci saranno. Ci dovranno essere. E quando non hai più nulla alle spalle, quando hai bruciato i ponti dietro di te, quando voltandoti non vedi che macerie o cumuli di cadaveri osceni, beh, in quei momenti lì, il futuro ti appare rosa come una cartolina profumata che arriva da Parigi. Una Vie en Rose. E uccidi per quel futuro. Ecco perché hai sempre una rivoltella o un fucile. Poi c'è chi le armi non le vuole, certo. E vedi queste masse di disperati che sono in grado di scannarsi anche per una briciola di pane? Poveracci perennemente sdraiati sotto la tavola del ricco e pulone in cerca di sopravvivenza. Li vede. Li vede, la sua unica arma è una chitarra. Una chitarra un po' male in arnese, un po' scordata. Che però quando si ravviva, quando viene presa dalla parte giusta e strapazzata da mani che ne hanno viste tante e sanno come parlarle, allora diventa un fucile peggiore degli altri, perché uccide non solo il corpo ma anche l'anima. È in quel momento che nasce la protesta. Tre accordi. Bastano tre accordi. E i treni si fermano. E i disperati alzano la testa, i disoccupati smettono di piagnucolare e i ricchi cominciano a tremare e i musicisti, quelli seri, ti ignorano, poi ti deridono, poi ti mettono in cattiva luce, poi ti combattono e poi vinci. Ma non c'è vincitore né vinto quando nella protesta le parole rimbalzano sui muri e tornano indietro come pietre appuntite. Le pietre anzi farebbero meno male al confronto. Di chi è la terra dove vivi, fratello? È tua? Ne sei certo? Hai davvero di che esserne fiero? Una terra che non dà da mangiare a chi la accudisce, a chi la calpesta, a chi la venera, non è degna di essere chiamata terra. Aspetta. Aguzza la vista. Guarda dall'altra parte del cartello. Perché la realtà, certo, è una sola, ma ha sempre due punti di vista differenti. Chi sta dall'altra parte disegna una realtà completamente diversa, ma non per questo meno vera. Da questa parte ci sono le regole, i divieti, la fame, la povertà, la disoccupazione, la disuguaglianza, tutti quei residuati bellici di un progresso che sembrava infinito. Di là non ci sono divieti, solo pace, quella pace che si ottiene lottando. Che meraviglioso paradosso, una guerra per la pace. C'è qualcuno che ha creduto fosse possibile anche quando a farla scoppiare sono i ricchi, ma i ricchi non fanno la guerra per la pace. No, i ricchi fanno la guerra per diventare ancora più ricchi. Perché sono già in guerra invece i poveracci. I poveracci sono già in guerra. Sono già oppressi. Sono loro che fanno la guerra per la pace. Perché cosa hanno da perdere? Niente. Non hanno niente. Per cui non hanno niente da perdere. E allora, amico mio, da che parte stai? Parafrasando ancora una volta il poeta, stai dalla parte di chi ruba nei supermercati o di chi li ha costruiti rubando? As I was walking through the ribbon highway, I saw above the endless skyway. I saw below me the golden valley. This land was made for you and me. I went on a ramble and I followed my footsteps. In a sparkling sandal on a diamond desert, and all around me a voice was calling. This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest into the cold stream water. This land was made for you and me. As I went walking, I saw a cinder, and on the same we sailed. Well, not your passing on the other side. Well, I didn't say nothing. Well, the sign was made for you and me. In the shadow of feet, I saw my people believe his office and on the steeple. Our sisters stayed hungry, and I still say, asking, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California And you're in your island from the redwood forest into the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. And nobody can live could ever stop me as I go walking into the freedom I wish. Nobody living can never me turn back. This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest into the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. E venne il momento in cui fu chiaro chi fosse il nemico. Anzi, fu chiaro prima ancora che ci fosse bisogno di un nemico. Eh già, perché se si sta in pace, se si sta bene, se si è raggiunto ogni obiettivo, ma che invece bisogno c'è di muoversi, di faticare? Basterebbe star fermi e godere dei frutti del lavoro, no? Ma ci sono due cose che rendono tutto questo difficile. La prima riguarda l'uomo, la seconda il potere. La prima. E se arriva qualcuno e questi frutti me li porta via? Me li ruba, me li distrugge, me li rovina. La seconda. Ma se la gente capisce che si può stare tutti insieme e si rammollisce, non consuma, non compra, non si sposta, smette di avere sogni e speranze. Se diventassero tutti dei branchi di rammolliti, politicamente corretti, attenti a ogni discriminazione, attenti al diverso da sé, gentili per davvero e non solo per educazione. Il nemico è lì, pronto a non farsi da parte. Si chiama uomo nero e poi comunista. Gli uomini neri non erano mai stati dei nemici. Prima schiavi. Poi, semplicemente gente inferiore, di rango e pure di cervello. Gente da segregare, a volte da punire, quando alzavano la testa, come ad Atlanta nel 1906, a Chicago nel 1919, a Tulsa nel 1921. E d'altronde lo diceva lo stesso presidente Wilson, eletto nel 1912. La segregazione razziale avrebbe fatto del bene agli Stati Uniti. Uomini col trattino. Così lui, il presidente, chiamava gli afro-americani. Oh, ma a questo punto anche gli italo-americani, gli ispano-americani e così via. Uomini col trattino. Uomini quindi la cui essenza non stava nel fatto di essere uomini, ma nell'esistenza di un trattino nella loro definizione. Il trattino è indice di imprecisione. Non si è né una cosa nell'altra, ma una macedonia delle due, il più delle volte venuta male. Il trattino divide, non unisce. Non sei uguale a me, sei un po' me e un po' no. E quella seconda parte ti caratterizza, è meglio allora che tu mi stia lontano. Aperte le virgolette. Ogni uomo che porta con sé un trattino porta un pugnale che è pronto ad affondare nelle parti vitali di questa Repubblica ogni volta possibile. Chiuse le virgolette. Questa è una frase testuale che ha detto il presidente Wilson, che poi nel 1920 ha vinto il premio Nobel per la pace. E dopo la Seconda Guerra Mondiale agli uomini neri si aggiungono i comunisti. il treno è arrivato dall'altra parte, non si può gettare nell'oceano. Non c'è nient'altro da fare, nessuna nuova terra da conquistare, bisogna guardare altrove, oltre l'orizzonte. Il nemico, il nuovo nemico, è là. Un cumulo di spaventosi omaccioni violenti e ubriachi ammassati nelle navi ancorate a Vladivostok. Il sogno continua. Un frigorifero, una televisione, una lavatrice in ogni casa. La giovane spocchia borghese che crea villette tutte uguali in cui rispecchiare il vuoto interiore di una famiglia benestante. La ricerca di un consumo fino a se stesso, bello perché è bello, quindi senza un perché. L'acquisto e il consumo diventano un rituale. Si ha bisogno che sempre più beni vengano consumati, distrutti e rimpiazzati a un ritmo sempre maggiore. La gente deve mangiare, bere, vestire, viaggiare, vivere in un consumismo sempre più complicato, sempre più costoso. Il treno, che non può andare oltre, però non si può fermare. E allora gira in tondo. Oh, perdi la bussola a girare in tondo. A molti piace parecchio, ridono, si divertono, non capiscono niente di quello che accade, perdono completamente il controllo su qualunque cosa. Ma a loro cosa gliene frega di avere il controllo? Anzi, sono ben contenti, felici come delle pasque, delle gare, le cose difficili agli altri e non dover sempre stare attenti come se si fosse sempre al lavoro. Basta, dai, e divertiamoci senza pensare, aumentiamo la velocità, più vortice, più follia, e dai! Ma alcuni non ci stanno. Sono in pochi a volerci vedere chiaro, ma quando ci si deve alzare in piedi in mezzo a uno scintillante toboga per dire basta, ci vuole talmente tanta energia che anche se si è uno da solo contro un esercito intero, si ha la forza di un gigante. Rosa Parks è una donna di colore. Abita a Montgomery, la città capitale dell'Alabama, uno stato che è a sud alla Florida e a est il Mississippi. Fa la sarta. Il primo dicembre del 1955 Rosa, che ha 42 anni al tempo, sale su un autobus giallo per tornare a casa dopo il lavoro. È terribilmente stanca quella sera. I piedi le fanno tanto male. Per fortuna trova posto nella terza fila di sedili, una di quelle comuni che stanno in mezzo fra i sedili riservati ai bianchi, che sono davanti, e quelli riservati ai neri, in fondo. Dopo tre fermate, le viene chiesto di alzarsi e di cedere il posto a un bianco, visto che i sedili per i bianchi sono tutti occupati. Rosa si volta e vede che anche tutti i sedili per i neri sono occupati. O magari in un altro momento si sarebbe anche alzata per rimanere in piedi e lasciare che quell'uomo bianco si sedesse, ma i piedi le fanno troppo male e quindi non si alza nemmeno quando l'autista ferma il bus e glielo urla nelle orecchie di alzarsi. Oh, andate al diavolo, pensa Rosa, io non ce la faccio a stare in piedi, sono troppo stanca. E poi dice, ma insomma io sono arrivata quando il posto era libero. Io l'ho preso, adesso è mio, questi sono posti comuni, che prima arriva meglio alloggia, no? E magari alla prossima fermata qualcuno si alza e allora questo signore, che è arrivato dopo di me, potrà sedersi. Per ora, mi spiace, no. Il diavolo è nei dettagli. Un banale mal di piedi cambia la storia degli afroamericani. Rosa viene portata via di peso da due poliziotti. Lo stesso era accaduto anche 9 mesi prima, ai danni di una 15enne Claudette Colvin, ma lì non era successo niente. Adesso no. Forse ripetersi del gesto nei confronti non più di una studentessa, ma di una onesta lavoratrice. O forse il fatto che la Parks, a differenza della Colvin, faccia parte di un movimento per i diritti civili. Fa perdere le staffe alla comunità nera, che risponde con violenza, fracassando vetrine e distruggendo autobus. Un pastore protestante di Montgomery, un certo Martin Luther King, convince gli altri capi dei movimenti civili a svolgere un'azione non violenta. Il 5 dicembre 1955 parte il boicottaggio degli autobus da parte dei neri. Pare quasi una goliardata. Ma la partecipazione al boicottaggio è massiccia, tanto da diventare una notizia che fa scalpore. I bianchi di Montgomery ci provano in tutti i modi a far desistere King dal suo proposito. Il pastore non cede, finché a giugno la Corte Distrettuale e a novembre la Corte Suprema non stabiliscono che la segregazione razziale sui bus in Alabama è illegale, perché viola il 14° emendamento della Costituzione. Il 21 dicembre 1956 King ferma il boicottaggio e sale su un autobus sedendosi dove gli pare con a fianco un prete bianco. Sono passati 382 giorni dall'inizio del boicottaggio e gli Stati Uniti non saranno mai più quelli di prima. In a little town, oh, just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what it is there beyond the sky. It's been a long, it's been a long, it's been a long time coming, but I know change gonna come. Yes, it will. Well, I go to the movie and I go downtown, where somebody keeps telling me, boy, don't you hanging around. It's been a long, it's been a long, it's been a long time coming, but I know change's gonna come. Oh yes, it will, and I know I will, and then I go to my brother. And I said, brother, won't you help me, please? And he winds up knocking me back down on my knee. Down on my knee. And there's been time that I thought I can last for long, but now I think I'm able, yeah, I think I'm able to carry on. It's been a long, it's been a long, it's been a long time coming, but I know, yes, I know a change is gonna come. It's been a long, it's been a long, it's been a long time coming, but I know a change's gonna come. Yes, it will, yes, it will. And I know it will. Il risveglio è più accecante quando è tuo padre a schiaffeggiarti. Passi da un sonno placido con sogni dolci, aggraziati, pieni di fiori rosa, di ghirlande profumate, di un cielo terso e infinito, all'incubo di una realtà piena di brutture e di cattiveria. L'incubo è poi amplificato dal fatto che a schiaffeggiarti è un padre che fino a quel momento ti sembrava buono e comprensivo. E non capisci quel volto diverso, ambiguo, corrotto. John Fitzgerald Kennedy. Un riformatore, per molti. Un eroe, per quasi tutti. Il volto pulito di un'America ancora in grado di percepire, di perseguire la bellezza. La gioventù al potere, il nuovo mondo in espansione, ancora e sempre di più, il treno che non smette di sbuffare sui binari del futuro. Diventa presidente il 20 gennaio 1961. E 6 mesi dopo, in un'intervista al direttore del New York Times, John Reston, dichiara: abbiamo un problema. E tutti penseranno: la disuguaglianza, la segregazione razziale, la povertà. Niente di tutto questo. Abbiamo un problema: rendere credibile la nostra potenza. Il Vietnam è il luogo giusto per dimostrarlo. Eccolo lì, il secondo nemico: il comunismo. Il Vietnam è un'ex colonia francese. Per 9 anni la Francia tenta di riconquistarla dopo la fine dell'occupazione giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale, ma i vietnamiti sono tosti e non mollano. Nel 1954, grazie all'azione congiunta di grandi potenze come Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna, Francia e Cina, si arriva alla conferenza di Ginevra che sancisce un compromesso, dividendo il Vietnam in due. Al nord, uno stato comunista guidato da Ho Chi Minh con l'aiuto di Cina e Unione Sovietica. Al sud, uno stato autoritario guidato da un presidente cattolico in linea diretta con gli Stati Uniti. Il compromesso però non piace ai seguaci di Ho Chi Minh. Beh, hanno lottato per 9 anni per almeno un Vietnam indipendente e adesso ce l'hanno, sì, ma è diviso in due, con una scelta decisa altrove da persone che il Vietnam non sanno nemmeno bene dov'è sulla mappa, sulla carta geografica. È per questo che comincia un'attività di guerriglia per rovesciare il regime del sud. Fino agli inizi degli anni 60 la presenza statunitense nell'area non è enorme, non più di 700 consiglieri militari. Ma con la presidenza Kennedy le cose cambiano. Nel 1962 i consiglieri militari sono già diventati 12.000, impegnati in azioni antiguerriglia, e sono giunte le forze speciali. Bisogna sconfiggere i dannati comunisti. Bisogna impedire che il morbo si sparga a Oriente. Non sia mai che vengano in mente strane idee anche agli smarriti giovincelli americani. E allora bisogna agire. Il padre buono e gentile, il volto sorridente del futuro radioso, diventa colui che dà inizio a un'escalation che durerà per più di 10 anni. Lui non la vedrà, lo ammazzano un anno dopo mentre benedice la folla a Dallas. Io lo vogliamo ricordare però, dove ha portato la sua lungimiranza. 58.226 ragazzi americani uccisi, 303.704 feriti. Ah, poi ci sono anche 5 milioni di vietnamiti ammazzati tra militari e civili e 1.700.000 cambogiani torturati e uccisi dai Khmer Rossi che andarono al potere grazie all'imbecillità politico-militare degli americani. Ma restiamo lì. 58.226 ragazzi che non hanno potuto coronare i loro sogni. L'intera popolazione di una città come Faenza, o se c'è più semplice, Legnano, inclusi vecchi, invalidi e neonati poppanti. Come gather round people, wherever you roam. Tell me that the water around the grown, and I'd say that soon you will wrench to the bone. Is your time, is your world a saving? Is your chain like a swim, is it pink like a stone? For the times they're changing. Come writers and critics, read up with your pen, and it keeps you wide-eyed if the chance won't come again. Cause it's peak at the soon, you will sprint till it's bent. There's no telling for you what he's naming. For the losers now, they'll be later to win. For the times, they are changing. Come to Senator, Congress is a man, please hear the call. Don't you stay in the doorway, don't you lock out the hall. For that good sir will be one as a star. But the battle outside is still raging, and we'll soon shake your windows and your rattle is your wall. For the time, they're changing. Come mothers and fathers to all the land, and you don't criticize what you can't understand. Cause your sons and your daughters are beyond your command. Well, your road is rapidly aging, please get out now, the new one, if you can lend your hand. For the times, they are changing. For the time, they are changing. For the time, changing. Ogni bambino cresce mitizzando suo padre, anche se questo è violento e distruttivo, ma ancor di più se è buono, se è protettivo, se è giusto. Non hai paura se stai con lui. Al suo fianco ti senti forte fino a evocarlo nelle scaramucce di bambini. Allora adesso chiamo il mio papà, che è più grande e grosso del tuo. Poi si diventa adolescenti, quella straordinaria età piena di dolori che non sopravvivono alla crescita, ma in cui l'autorità per la prima volta viene messa in discussione. Ma se tuo padre resta nelle sue disposizioni, forte, buono, coraggioso, beh, insomma, è più difficile ribellarsi a lui. Magari lo si manda a quel paese, si combina qualche guaio, piccolo o grande, ma basta uno sguardo, un dito alzato, per fermarsi e ritirarsi in buon ordine, nella propria cameretta. Offeso, deluso, incazzato, ma in qualche modo pacificato. Non lo si capisce in quel momento, lo si capirà solo crescendo, almeno quasi tutti. Ma se è tuo padre a iniziare a comportarsi male, se il tuo coming of age non comincia con il frutto di una mela, ma con uno schiaffo inusitato. Succede che una grande nazione si trova di fronte per la prima volta nella sua storia da un movimento di massa formato da giovani, giovanissimi, che contestano, alzano la voce. E la cosa più fantastica è che a contestare, ad alzare la voce, in qualche misura gliel'hanno insegnato proprio i genitori, con il benessere, con la sicurezza, con il consumismo. Io ho tutto, almeno posso volere tutto, qui e ora, in una incrollabile e ostinata fiducia nel domani, nelle magnifiche sorti della nostra nazione. E ora cosa mi dice questa nazione? Che devo abbandonare tutto per andare a combattere. A combattere per cosa? Per la mia nazione? No, no. contro i Viet Cong comunisti. Ah, ma cosa hanno fatto questi Viet Cong comunisti? Vogliono forse conquistare l'intero continente da lì poi il mondo come voleva fare Hitler negli anni 40? Oppure ci hanno attaccato ammazzando nostri connazionali come i giapponesi a Pearl Harbor nel 41? No, mio caro, no, niente di tutto questo. Hanno violato un trattato di pace. Oh, ma quel trattato di pace l'hanno scritto loro? No, l'abbiamo scritto noi. Ma insieme ai loro amici, però. Sì, però non insieme a loro. Ma che c'entra? Ma loro sono nemici, sono cattivi, sono il nemico, sono i comunisti. Ecco la tua cartolina, mio giovane soldato. Partirai domani, all'alba, e andrai a donare te stesso per i valori della patria. Per i valori della... cosa? A Saigon? A Saigon per i valori della mia patria? Meglio fuggire. Negli anni 60, migliaia di giovani statunitensi fuggono in Canada o in Europa per evitare la leva obbligatoria. Come fa Kevin Costner nel film Fandango, l'avete presente? Se non l'avete visto, guardatelo, è un gioiello. Un'ultima notte a celebrare i privilegi della gioventù, un ultimo sogno spezzato e poi via, per sempre. O chi non vuole fuggire ma è abbastanza ricco, si iscrive all'università. Almeno fino a 26 anni si è esentato dalla chiamata. Chissà, magari quando arrivi ai 26 anni la guerra è già finita. Ma per molti è stata addirittura più semplice, se così si può dire. Cioè, è bastato sposarsi. Essere padre di famiglia per tutto il corso della guerra ha esentato dalla chiamata. Oppure farsi dichiarare pazzi da un medico militare. Oppure, meglio ancora, entrare nella Guardia Nazionale. È ciò che accade a tre futuri presidenti degli Stati Uniti. George W. Bush, Bill Clinton e Donald Trump, che crescono spensierati e ancora attaccati al sogno di una nazione prospera, mentre tutto intorno compaiono gli zombie. Finger on the trigger, but I'm holding the truth. And I look into your eyes, and there's a end that was ended. A long, long way from home, Bobby. Home's a long, long way from us. Pretty dirty wind blowing, the reason that was under. I got God on my side, I'm just trying to survive. But what you did to survive, kill the things you love, my fear's a powerful thing. Can turn your heart like you can trust. Take a Garfield song, fairy world that was ended. Well, I dream of you last night in a red and bloody storm. The blood began to dry, and the smell began to rise. I got gone myself, but I'm just trying to survive. But what you do to survive, kill the things you love, fear's a powerful thing. Can turn your heart like you don't choose. Take off your song, fill the world that was under. woman and every man. They wonder if the righteous then find the love that God wills, the faith that He commands. But I got my finger on my trigger. The night of faith just singing out, and I look inside my heart. Where's in the agenda? But I got girl on my side, and we're just trying to survive. Care what you do to survive. Kill the things you love, feel the powerful thing. Come turn to her like you can trust. Take a ride and feel the sun, and tears on the bazenda. Take a ride and feel the sun, turn us on the bazenda. La storia con i secoli, ma non si può fare, su questo non ci piove. Però non si può non provare a immaginare che cosa sarebbe accaduto se Alessandro Magno non fosse morto a 32 anni, se a Waterloo Napoleone avesse sconfitto Wellington, o anche solo se Roberto Baggio non avesse sbagliato il rigore nella finale di USA 94 contro il Brasile. Il 5 giugno 1968 Robert Kennedy, il fratellino, quello giusto, lui sì, buono e coraggioso, passa nelle cucine dell'Hotel Ambassador di Los Angeles, dove ha appena tenuto un discorso. È in testa nelle primarie del Partito Democratico per diventare il candidato alla Casa Bianca, visto che il presidente uscente Lyndon Johnson ha dichiarato di non volersi candidare. Intorno a lui molta gente, fra cui la persona che gli spara la testa, uccidendolo. L'11 dicembre del 2000, Al Gore, pacifista e ambientalista, candidato presidente per il Partito Democratico, perde le elezioni perché la Corte Suprema decide sulla base dei regolamenti elettorali, ma a maggioranza, non all'unanimità, e per intenderci una maggioranza di 5 contro 4, di fermare i riconteggi delle schede elettorali della Florida. L'unico stato in bilico per cui Gore ha chiesto il ricalcolo in 4 contee, dopo che un iniziale riconteggio ha assottigliato il margine di voti rispetto al rivale da 1784 a 327. Le elezioni del 1968 vengono vinte da Richard Nixon, che dichiara: «Non sarò il primo presidente degli Stati Uniti a perdere una guerra». Sotto il suo mandato, i militari statunitensi presenti in Vietnam raggiungono il numero più elevato, 540.000 uomini. Le elezioni del 2000 vengono vinte da George W. Bush, che dopo l'11 settembre attacca prima l'Afghanistan, che conquista senza però riuscire a stanare il pericolo pubblico numero uno Osama Bin Laden, e poi senza alcun reale motivo l'Iraq, contribuendo in modo sostanziale alla nascita dell'ISIS. Se Bob Kennedy non fosse stato ucciso, se Al Gore avesse vinto le elezioni, ma chi lo sa, magari sarebbe andato anche peggio. Anche se è peggio di così, bah, vabbè. Chi ha scritto che la storia è maestra di vita ha scritto un'incredibile minchiata. Non è vero che la storia insegna, nemmeno in migliaia di anni, allo stesso modo in cui l'urna di un'estrazione non tiene memoria dei numeri già estratti e poi rimessi dentro. Perché se la storia insegnasse, non assisteremo più a ripetersi di queste scene. Di giovani morti carbonizzati dentro cavi armati dopo un attacco suicida. Di civili fatti a brandelli da bombe improvvise mentre camminano per strada. Di ragazzi che si immolano in nome di qualcosa. Gli Stati Uniti sono un grande paese, pieno di fiori, di foreste, di laghi, di fiumi, di montagne, di città, di vita e anche di esseri umani che non ci sono più. Di un passato che significa innocenza, che non tornerà mai più. E la colpa non sta nel fatto che si cresce e indietro non si torna, ma nel fatto che si è dato importanza alle cose sbagliate, al lato oscuro della luna, a un prodotto interno lordo fatto di offesa e cattiveria anziché di felicità. Sembrano parole un po' vane, eh? Vero? Un po' ingenue, un po' datate. Peccato che non siano mie, sono di Bob Kennedy. Sì, proprio lui. E vale la pena di pronunciarle tutte, queste parole dette dal senatore Kennedy. Con troppa insistenza e troppo a lungo, sembra che abbiamo rinunciato all'eccellenza personale e ai valori della comunità in favore del mero accumulo di beni terreni. Il nostro PIL ha superato 800 miliardi di dollari l'anno, ma quel PIL, se giudichiamo gli Stati Uniti in base a esso, comprende l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette, le ambulanze per sgombrare le autostrade dalle carneficine, comprende serrature speciali per le nostre porte e prigioni per coloro che cercano di forzarle, comprende la distruzione delle sequoie e la scomparsa delle nostre bellezze naturali nell'espansione urbanistica incontrollata, comprende il napalm e le testate nucleari e le auto blindate della polizia per fronteggiare le rivolte urbane, comprende il fucile di Whitman e il coltello di Speck e i programmi televisivi che esaltano la violenza al fine di vendere giocattoli ai nostri bambini. Eppure il PIL non tiene conto della salute dei nostri ragazzi, della qualità della loro educazione, dell'allegria dei loro giochi. Non include la bellezza delle nostre poesie, la solidità dei nostri matrimoni, l'acume dei nostri dibattiti politici, l'integrità dei nostri funzionari pubblici. Non misura né il nostro ingegno, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, nella devozione per la nostra nazione. Misura tutto, in poche parole, eccetto quello che rende la vita degna di essere vissuta. Ci dice tutto sull'America, eccetto il motivo per cui siamo orgogliosi di essere americani. Era il 18 marzo 1968. Martin Luther King era ancora vivo e tutto ancora poteva cambiare. Man walk along the river trail, going someplace, there's no going back. Highway patrol choppers going up over the reef. Hot soup on a campfire under the breeze. Shiver lines raging around the corner. Welcome to the new world order. Famously been in a car and is in Southwest. No, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight. The way is any and everybody knows. I'm sitting down near the campfire light, searching for the ghost of Tom Jones. It was up in the garden and sleeping bed. Bridge last and the burden they still dressed. Winifred and the last shall be first, and the first shall be last. In a carbon box, maybe under the bed. I got a one-way ticket to the promised land. You got a hold of you, believe it on your hand. Sleeping on a villa to the solid rock. Here in the city, Ecuador. Well, the hour is light tonight. The campfire light, wind and on the ghost of Tom Joe. Now Tom said, Mom, wherever there's a cop, being a guy. Wherever hungry and you born, baby, cry. Burdens are fighting in the blue, nitrogen in the air. Look for me, Mom, I'll be there. Wherever somebody's fighting for a place to stand. Where a decent job or helping. Wherever somebody's struggling to be free. Look in her eyes, Ma, you see me. Where the highway is alive tonight. Where's in the end, everybody knows. I'm sitting here to come for love. With the ghost of a Tom Jones. Davide Verazzani. Davide Perienza. Grazie. Grazie Alex Algio. Grazie Alex Algio, questo luogo straordinario dove le molecole dell'aria sono buone. Quindi venite voi e vostri amici. Grazie.